inizio. Non ha mai funzionato. No, perdiamo tempo. Se urlo sentite, non fate casino voi, siamo a posto. Allora, c'è diverse cose da dire. E non ho tutto da fare. Allora, questo è il formato. Siamo a Osi. Fra i 2000 corsi che avete, c'è anche. E si fa in un modo particolare. Come vi ho detto prima, si fa una registrazione video audio, così si fornisce un servizio. Si dovrebbe pagare le tasse e non si dovrebbe fornire servizi. Si fornisce un servizio con il quale chi non c'è si può sentire la lezione e non c'è questo spappolio del sentito dire, prof, poi me li incocciano, io sono di solito ben disposto, ma se ne ho 3000 poi rispondo in modo insufficiente. E via dicendo, no, ci sono le registrazioni, uno se le guarda, chi sta fischiando? Te, il tuo cellulare? Sì. Ecco fuori la finestra. Allora, perché noi si usano dei siti web per fare la didattica, eh? E vi spiego per benino come. Quest'anno c'è una grande novità, è la prima volta, perché io ho sempre fatto da 8 anni tutto da solo, e oggi c'ho una, da quest'anno per voi c'è una sorta di assistente, non so che, e lei ci aiuterà, dovrebbe migliorare un po' le cose per voi, perché è vero che io ho congegnato un sistema che è molto personalizzato, avete un sacco di libertà eccetera. Però sta di fatto che nel secondo semestre io bene o male dall'altra parte, al di là di questi cosi, tastiere eccetera, c'ho circa 400 persone, che insomma qualche problema ce l'ho, quindi e lei gioca un ruolo parecchio importante. Dovreste poter fare riferimento a lei, insomma, ecco, principalmente. Allora, perché l'informatica si fa in modo così diverso? Ci sono dei motivi parecchio forti. Dunque, prima di tutto si dice che la missione del corso sarebbe informatica di base. Però, che vuol dire oggi? Perché se si parla di anatomia, si sa tutte le stesse cose prima di fare un corso di anatomia. Ma informatica di base, specialmente con sulla vostra generazione, è un incubo se uno deve provare a spiegare delle cose senza interrogarti prima. Non interrogarti tipo esame, chiederti ma te che cosa e quanto sai su cosa. Perché? Perché fra di voi, io fate conto, vedo 700 studenti l'anno, ne ho visti circa 6.000, 7.000 in 8 anni, quindi ho delle statistiche in testa molto solide. Io so per certo che c'è un 10% sicuro tra di voi che su svariati argomenti ne sa più di me. È normale questo. Ci sono ragazzi oggi che a 14 anni installano Linux sul computer di ogni tipo. È una realtà, ma posso ignorare, Beh, se uno vuole, ma io. Poi, nelle stesse persone, io sono sicuro che c'è un 10% convinto ancora, e forse in quella tastiera con tutti quei dannati bottoni, accidenti, quanti ce l'hanno messi, ce n'è uno che è quello dell'autodistruzione del computer. In tutta, c'è sempre, e sono così trafotante, ne faccio così il saccente, perché lo so, qualcuno ha già alzato la mano, c'è di sicuro. E poi fra questi due 10% c'è la sfumatura. Tutti voi siete lì, chi è qui, chi è là. Ma mi dite voi, quanti crediti ho io con voi? Voi direte, se non lo sa lui, non ne so. Mezzo credito o un credito, andantino, avrò con voi. Poi vi fo le stesse cose qua, quelli in cui c'è, forse c'ho 3 crediti. Io ne ho togliati 5. Vi fo sempre le stesse cose. Allora, ma un credito andante. Sì, che sarebbero 5, 6, 7 ore di lezione. Ma mi spiegate un povero Cristo, cioè io, come fo a fare lezione decentemente a della gente così sparpagliata, dove c'è quello super esperto e c'è quello che ha paura di andare nascosto al computer? Ma come fa? Non è possibile. Siccome i problemi sono appiccicosi, si agglomerano volentieri l'uno sull'altro, ce n'è un altro grosso. Che in questi nostri tempi così esplosivi e turbolenti, quando hai imparato una cosa, oggi, fra 6 mesi a volte ti tocca buttarla via perché è cambiato ogni cosa. Questo lo si può dire in modo un pochino più serio anche. Io sono uno nato nel 55, sono nella generazione di mezzo alla transizione, alla grande transizione. Allora, se vuoi la generazione dei miei padri, grosso modo i vostri nonni, per quella gente lì valeva un paradigma di studio proprio bello chiaro. Si studia come matti, parecchio inutilmente, comunque come matti tutta la vita, si prende questo titolo di studio, nel caso chi va via con l'automatrice, chi c'ha la padella, chi c'ha il laccio, chi c'ha lo stetoscopio, uno va con i suoi attrezzini nel mondo e fa il suo mestiere. E si spacca la vita in due, si studia e poi si lavora con gli strumenti acquisiti nello studio. Questo era vero. Non fatto bene, ma vero, fino alla generazione dei miei padri. Io sono a cavallo, a me ne è cambiato, quelli a me alla mia età gli è cambiato il terreno sotto i piedi. Per questo molti della mia generazione sono un po' ora schizzati perché stavano soffrendo. Chi la piglia bene ci si ripete, chi la piglia male fa. E poi vengono le nevrosi, lo sapete meglio. Invece. Ora per voi siamo in una situazione, guarda, questo non è solo una cosa italiana, che in Italia si dorme più che negli altri paesi, mediamente per una serie di problematici, ma in tutto il mondo la situazione è che se si studia una cosa ora, fra poco è cambiata, e questo è molto vero con le tecnologie. Ci sono delle stime fatte in America che nelle facoltà di tecniche, praticamente quando uno fa il quarto anno, c'ha all'incirca la metà delle cose fatte al primo sono già obsolete, se non addirittura ormai sbagliate. Cioè, e del resto oggi è normalissimo nelle vite di tutti usare strumenti e tecniche che quando uno aveva studiato semplicemente non c'erano. E allora a scuola che si impara? Parecchie cose, sì. Voi fate un mestiere importantissimo con delle cose, se Dio vuole, di molto pratiche e fondamentali, cioè provare una vena come si deve, una cosa, ecco, vabbè, quelle sono cose, vabbè, così. Però anche nel vostro mestiere futuro c'è un sacco di tecnologie, queste sta facendo, cambiano, eccetera. Cambierebbero anche i modi di lavorare, anche se dalle nostre parti siamo pachidermici. Bene, allora prendiamo il solito professorino di terza categoria, dice falli anche a loro. Falli in informatica di base. Allora, sanno tutte cose diverse di base e intanto sta cambiando tutto sotto il naso. Cioè, praticamente non può che venire fuori una schifezza, non c'è versi, non c'è versi, parla bene. Bene, ecco, ora io non la fo lunga tutta la storia, ma è stato un percorso lungo, però da 2 o 3 anni è abbastanza stabile, anche se io ogni anno cerco poi di adattarmi, va bene? Questo giustifica il fatto che è così diverso. Per fare un bel discorso sintetico, bello nel senso bello sintetico, dare il sodo, ma voi che potete fare questa cosa? Allora, voi avete la caratteristica di questo corso della libertà personale, che dovrebbe essere il fattore fondamentale di ogni forma di apprendimento, perché gli esseri umani apprendono bene quando hanno una sensazione di libertà e quando possono associare divertimento allo studio, e quando lo studio e ciò che cercano di apprendere è ben calato nella realtà, perché se no tutto quello che è fuori è appiccicaticcio, che va benissimo per prendere anche un bel voto all'esame, ma non è apprendimento assolutamente. Questa è una cosa che tutto il mondo ci si sta arrivando piano piano, però insomma ecco, parecchie difficoltà. Allora, la libertà, se, nel senso, voi avete sostanzialmente 3 opzioni, ma quelle fondamentali sono 2. Allora, io so che c'è un elevato livello di scolarità. Che voglio dire con questa espressione? Voglio dire che siamo stati, la mia generazione, quella dei miei padri, la vostra, tutti dicono è degenerata la scuola, non è vero, la scuola è sempre stata degenerata, va bene? È un percorso scolastico, è un percorso nel quale in realtà ci si abitua a rispondere a delle domande e dei quesiti preconfezionati in un cerchio chiuso, quando poi con l'idea della verità, la verità è cioè la risposta vera c'è, quasi sempre sono dicotomici, il professore sta lì sullo scranno, vero falso, e poi imparate a fare i pappagalli bene, oppure imparate a dirla come la vuole lui, fatto fondamentale per sopravvivere nella scuola, eccetera. Quando poi uno viene buttato nella vita cambia tutto. Le scelte non sono quasi mai dicotomiche, sono complesse, complicate, e spesso le decisioni importanti non sono, non si possono fare col manuale. Il manuale uno lo può leggere ma se lo frigge, perché la realtà è sempre più complicata, e spesso le vere scelte sono frutto di un misto della razionalità e dei disceni. Uno spesso le scelte importanti le fa di pancia, e questa è una cosa non eliminabile e che andrebbe un po' recuperata. Allora, la scolarità però fa sì che dopo, quando uno ha passato 5 più 5, la scuola elementare in Italia è una delle migliori del mondo, fino ad ora. Sì. Mentre i licei, quello che dico, in Italia è particolarmente pesante, perché i licei e le università sono fuori fase, siamo fanalini di coda in tutto il mondo, mari di paesi, ma siamo completamente sotto la media. Allora, la scolarità fa sì che noi siamo molto abituati a questo sistema. Insomma, si può sapere, le domande e le risposte più facili sia possibile, cioè fare la cosa e non si può togliere. La libertà dà spesso noia. Però siete ancora un po' a cavallo, siete abbastanza recuperabili. Io lo so per esperienza. Dipende. Allora, io offro un'opzione tradizionale per chi non può togliere. So che c'è, e la situazione è tale per cui è giusto rispettare questo. Comunque anche la versione convenzionale, l'opzione convenzionale è atipica in questo corso, perché non c'è da comprare nulla, L'abitudine di far comprare libri per studiare è una barbarie, è una cosa che non dovrebbe esistere in una scuola, tanto più una scuola pubblica. I docenti dovrebbero essere in grado di vomitare ciò che serve alle persone. Dialogare, questa è una cosa, non parliamo di quando poi il libro uno l'ha scritto, sono cose che in un paese civile non succedono. E allora, quindi, io ho scritto delle cosiddette dispense e l'ho schiaffato in un sito, poi ho qui una tecnologia solo per fare queste cose, poi quello che conta, porto i libri solo per far vedere che le persone che vogliono guardare nel futuro devono leggere i libri, però usano gli strumenti. E poi scrivo due indirizzi internet lì sopra, perché non vi do altre cose concrete. Però vi spiego che cosa succede con quegli indirizzi. Bene, in uno di quei due siti, quello che chiamerò Wiki in generale, ci sono le dispense che io ho scritto, in parte in collaborazione con degli studenti. Però in una materia così mutevole, queste che sono informazioni che cambiano sempre, per esempio la velocità della DSL, io la scrivo oggi, tra 6 mesi devo andare a ricambiarla. Il messaggio è, lì ci sono le dispense, ma la materia è fluida. Nessuno può pretendere di scrivere il libro. Si può scrivere le operette morali, che sono valide sempre, perché sono generali, ma non manualino di informatica, perché cambia in continuazione. È stupido fare il manualino di informatica. Oggi c'è Wikipedia, ADSL, si avete su Wikipedia, perché è aggiornata quasi in tempo reale. Quindi ci vuole questa elasticità. Comunque i contenuti ci sono, nel senso che volete fare il quiz alla fine, benissimo, gli argomenti sono quelli, quindi non c'è discussione. Poi su quelli uno può dire mi sembra questo numero mi puzza sia un po' vecchio, si va a vedere, poi gli argomenti sono quelli. In fondo c'è il quiz, per voi saranno 10-15 per chi li vuole fare. Io ho fatto un sistema piuttosto sofisticato, le mie manine, perché sono un po' tecnico, va bene, al suo tempo, per fare i quiz online nell'aula informatica. È fatto bene, ma poi a un certo punto ho smesso di migliorarlo, perché ho capito che i quiz sono cretini di per sé. Non è che io facendo un super sistema online rendo il quiz un modo nobile di interagire con le persone che cercano di imparare qualcosa. No, il sistema qui fa schifo, voi fate giustamente perché avete troppe cose da fare, non va bene, sì, comunque è così, tendenzialmente a caso un po' di consenso con una letturina che non è studio vero, non è miglioramento di nulla, di fatto poi uno la secca e tanti esami si fanno così, lo so, non solo infermieriste, tutti. Comunque, per queste situazioni, anche perché io all'inizio questa cosa l'ho costruita su un piano, non potevo certo interrogare 700 persone l'anno, come vi piace, non interrogare, parlare per capire di che ha fatto uno. Ho fatto il sistema quiz. Quindi può venire a fare quiz. Quando? Andiamo subito al sodo, perché a noi studenti ci interessa sapere, non si ha a cascare. Ecco, allora. Avremmo, perché ora non sono più solo, questo mi dà. 8 anni di solitudine. Allora avremmo abolito il concetto di apprendere. Basta, è sto stress. L'esame come il caffè, Dice, sai che può pigliare un caffè, già che ci sono fatto l'esame di questa è l'atmosfera. Allora, voi avete un certo numero di ore con me fissate, io glielo ho dei complici in segreteria, me ne fissano, Però c'è solo questa così, la solita, la prima forse ha senso farla così, poi ci vorrebbe una roba più personalizzata. Io sono nelle ore, queste qui di solito una volta a settimana, fra mercoledì e giovedì, le 15.40, alle 14, 15.40. Io sono nell'aula informatica, in realtà io so per esperienza, voi avete tempo all'ora di pranzo, se venite prima io ci sono, perché la mattina ci sono per quegli altri, ma cioè medici e odontoiatri. Ma se venite in mattinata non è che io ho le divisioni, cioè per me gli studenti sono tutti uguali, quindi se viene a fare una domanda e rispondo, a prescindere dal corso di laurea. Benissimo, se voi venite nelle ore, o che io ho scritto nel calendario, poi vi dico dove, colloqui verbali e esami, una lezione del genere, oppure venite nelle ore vostre, queste due orette di pomeriggio, una volta a settimana, e voi dite, prof, io sono dello zoccolo duro con fa quiz, posso fare l'esame? E io apri il caffè così fa l'esame. E allora vai al computer e fai quiz, non me ne importa quando. Così venite diluiti. Voi avete un paletto in meno intorno al quale girare, e per me è anche più rilassante, perché se c'è una cosa non sopporta l'atmosfera di testi stressati fuori dalla porta entrano, per poi fare celebrare una baggianata. Questo non lo sopporto proprio. Bene, questo è il percorso convenzionale. Nel sito ci sono anche, c'è una pagina con delle domande di autovalutazione. Uno dicesse voglio fare l'esercizio, vuoi vedere un po', li fa. È un sistema banale in cui uno clicca una delle tre possibili risposte e poi dopo viene una paginina, c'è scritto ho sbagliato, questo è con l'altro. Allora potete usare, sono esercizi, tutti vogliono usare, li uso. Bene, opzione numero 2, che è quella, la 1 e la 2 sono le più importanti. Allora, l'opzione numero 2 è in realtà non un corso dove c'è materiale, contenuti che si studiano, ma è un percorso nei territori del web 2.0, cioè l'internet vostra, l'internet di oggi, quella che non sta capendo nessuno di quelli della nostra età, più mia più che altro, appunto. Allora, è un percorso. Qui, ragazzi, il discorso è proprio, cioè, bisogna pigliare un quaderno, si usa un quaderno, però naturalmente, e si usa con lo spirito del quaderno. Forse avete ancora fatto in tempo a avere un quaderno da comprare che fa italiano in terza elementare, penso, no? Ecco, che si fa con i quaderni? Si compra e poi dopo le fanciulle ci fanno le farfalline, colorini, quegli altri, non so, non so più, io voglio fare il pilota, poi mi hanno detto al sapere. No, non fa quello sui faccia, poi parlavo con l'onnello, invece passa la voglia in un quarto d'ora, capisce la disciplina. Sarei fuggito l'aeroplano in Alaska. Allora il quaderno uno lo usa, ci scrive le cose sue se vuole, poi gli esercizi e i compiti e dice il professore, E poi quando è finito, o chi lo butta via, chi lo mette in una cassa panca pensando di farlo vedere lacrime agli occhi alla prole dopo. Ognuno, chi lo usa con una nota delle spese, stracciando giustamente i compiti che aveva fatto nel corso, tutti i modi. Bene, ma che, però non è proprio un quaderno, ora il quaderno è del 2000, dovete fare un blog. Il quaderno è un blog. Chi è che non sa cos'è il blog? Non avvivo perché la minoranza è troppo esigua. Il blog sono solo delle pagine web che una persona scrive, chiunque, anche una delle nostre mamme, chiunque, anche mio nonno se fosse lì potrebbe fare il blog, 5 minuti in fa, e si usa un quaderno. Voi lì ci scrivete i compiti che dico di fare io. Uso la parola compiti per stare, per tenere tutti tranquilli. In realtà sono un po' dei suggerimenti. Però nel blog si può scrivere quello che si vuole. Nel blog spesso voi vi scatenate, voi quelli della vostra età che ci provano, e ci mettono di tutto. C'è quello lo fa sulle motociclette, quello sull'heavy metal, quello qua è giapponese. Ne ho conosciuto uno che aveva imparato il giapponese e suonava nella band heavy metal. E ora ha fatto il blog tutto così, cioè, tutto si può fare. Matteo Piccini si chiamava. Vedo c'è delle contaminazioni. Questo è bello, sì. Pazzo scatenato. Allora, e ce n'è di tutti i colori proprio, una fantasmagoria di espressioni. Allora, c'è una sola regola, qualcuno, malgrado tutte queste voci strane che io faccio, qualcuno di voi a volte mi dice: ma è che ci posso scrivere sul blog? Non l'ho urlato, che volete voi? Allora, c'è una regola sola, si può scrivere di tutto, parlare di tutto rispettando il prossimo. Quindi se io ho, cioè si formano i dialoghi nelle blog, io le chiamo le blog classi, normale, e quindi un sinistrone può trovarsi a parlare con un destrone, ma la cosa civile è normale che il sinistrone faccia le sue ragioni, ma tenga un pezzettino di corteccia accesa, perché forse nelle ragioni del testrone non è possibile che un essere umano sbagli sempre, non esiste questa cosa, e neanche che io la zecchi sempre, quindi può essere che qualche volta le sue ragioni un barlume di verità ci sia, e reciprocamente per il testrone deve essere così, quindi è rispettare l'idea di questo, si rispetta, basta, non c'è altre regole, solo questa. Precisazioni. Allora, qualcuno di voi dice: io sono un tipo riservato, molto, e non mi piace tutta questa storia, il mio ego in piazza, no, non ce lo voglio mettere con me. Ma chi ve l'ha detto di mettere il vostro ego? Cioè, non vi siete mica posti questo problema quando in terza elementare vi dissero di comprare il quaderno per italiano? Che c'entra? Allora va benissimo, lo usi come un quaderno e metti ciò che vi dico io di scrivere. Basta, pulito. Vi do 6 suggerimenti e voi mettete 6 vostre espressioni. E basta, sufficiente così. Ma se per caso qualcuno di voi lo volesse usare come strumento di espressione, e ci sono alcuni di voi che si casano completamente e poi o compattiscono e vanno per la tangente, benissimo, mescolate le vostre espressioni con questo creare. Capito? Totale libertà. Allora, diciamo subito come funziona la valutazione. Questo è il punto per me più doloroso, perché in una didattica fatta per bene la valutazione dovrebbe essere intrinseca, cioè si fanno con questo tipo di organizzazione di massificata, e devo dire difficile, però dovrebbe essere, si fa un percorso insieme, docente e discenti, dopodiché quando il percorso è stato fatto, basta, finito, l'hai fatto, ce l'hai vissuta questa cosa bene, senza stare a fare tante graduatorie e lasciano il tempo che trovano. Sono spesso largamente sbagliati, cioè non misurano tutte altre cose spesso. Allora, al momento doloroso, dunque, se venite a fare quiz, io è chiaramente come se fossi con le spalle al muro, non ho più gradi di libertà. se fosse 30 non ci sarebbe nessun problema, ma di fronte a 400 studenti in un semestre, e chi fa il quiz, niente, fa il quiz e io fo la zecca, tot. In realtà non è nemmeno un numero di domande, perché ho dato pesi diversi e domande diverse, quindi viene un valore normalizzato, e se uno ha azzeccato l'80%, l'80% è il meno. Io poi, perché sul buono metto uno in più, e buono, però non posso fare. Questo, ragazzi, io devo anche fare, perché siccome introduco tante innovazioni, devo anche un pochino presentare un minimo di... perché sennò posso dire... Ecco, questo per il quiz. Per i blog, pensavo proprio da questo corso qui in poi di cambiare un pochino. Perché, vabbè, ho delle statistiche enormi di risultati. L'anno scorso solo la classe in medicina produsse 5.000 post in 3 mesi con 3.000 commenti incrociati. Io li ho letti tutti. Quindi, so che succede e ho dato dei pesi a tutti i post, eccetera. Allora, considerato anche il tipo di messaggio, diciamo, pedagogico che voglio dare, e gli obiettivi che mi prefiggo, io fo questo discorso qui. Vuoi tu fare il blog? Bene. Io so qual è il momento nel quale te hai fatto, quanto ci si può aspettare e quanto ha minimamente fruttato per te questa esperienza. A quel punto te prendi 3 e buonanotte. Finché non sei lì, non ci sei e basta. E dopo puoi finirlo quando vuoi. Io il tempo non l'ho mai usato, nel senso che non ci sono limiti di tempo. Se voi volete metterci, se avete bisogno di metterci 6 mesi, 10 mesi, 1 mese, per me è indifferente. Io voglio svincolare il tempo, perché il tempo crea delle, secondo me, delle distorsioni di valutazione. Cioè, basta che uno abbia avuto una sfortuna, un mal di denti, la lasciava al fidanzato, a seconda, perché la prestazione cala, il tempo è quello e io piglio 26 invece di 30. E questo è una sciocchezza. Allora voi lavorate finché volete, quindi, solo che invece di stare a fare, perché alla fine è diventato penoso per me, ho fatto un sistema anche quello un po' sofisticato, per cui vabbè, conto il numero di post, il numero di commenti per post, peso tutto, poi dice vabbè questo 27, fai un altro post 28, appena si va, mi mette in difficoltà, ragazzi, ve lo devo chiaramente anche il sistema di votazione italiano, ve lo dico, perché tu, nel resto del mondo ci sono i voti e CTS, che sono A, B, C, D, E basta, 5 valori, che è la cosa normale, no? 3, il valore di medio, buono, l'ha fatto buono, basta, non stiamo tanto a fare tanto niente. Oppure, boia, però insomma, B, vabbè, oppure Maremma, ragazzo, che ti fa? Ah, basta, chiuso, più di questo, 28, 29, la commissione, ma a me basta che si incappano un altro velox il giorno prima, mi si abbassa tutti i voti, capito? Cioè, non è una cosa... Allora, il blog funziona così. Chi lo vuol fare, sappia che deve lavorare un po', cioè ce lo deve vivere. Per chi si diverte, la cosa se ne accorge nemmeno, si diverte e basta, arriva a fondo. E se no, bisogna che quel numero minimo di espressioni vostre che io suggerisco, le deve fare. Poi tutto quello che fate più, io tengo molto conto di alcuni fattori fondamentali della vostra tipologia e corso dell'altro. E cioè, cooperare, cioè un'altra cosa che la scolarità ha ammazzato in voi, e in me, e in lei. Cioè, voi avete vissuto un clima scolastico, io ho figli della vostra età quasi, quindi lo so come funziona, un clima scolastico devastante. Il mondo oggi chiede cooperazione, andate a fare un colloquio in un'azienda. Forse qualcuno l'avrà fatto. Ma una delle prime cose vi chiedono è: ma te come tu ti relazioni con quegli altri? Nel gruppo come tu lavori? Come tu cooperi? È fondamentale. Grandi aziende come l'IBM da 20 anni pagano fior fiore di psicologi per creare gruppo nei team di manager, di sottomanager, di tutto. E noi qui a scuola tutti il capino basso, tutti con la mammina a chiedere quanto si ha preso e tutti a lottare questo per numerino a testa bassa. Non assolutamente, non facendo nessuno. Levitandosi per i banchi quando c'è la simulazione della terza prova, delle sposate mostruose, delle cose che non servono a niente, sono diseducative, perché chi lavora con questa testa nei team fa casino, non produce, capito? È una scuola devastante questa. Quindi qui si premia chi copia, ma la copia intelligente, capito? Chi collabora. Io non riesco a fare questi cavoli di feed RSS per leggere i blog degli altri, e vado da te, chi lo sa fare, a te, me lo scrivi, fa vedere, e si fa insieme. Venga a casa tua, te tu vieni a casa mia, ci si trova, magari si fa anche amicizia. E si lavora insieme, perché lavorare insieme è la forma principale di apprendimento che ha avuto luogo fino all'Ottocento. Poi nell'Ottocento è venuta la classe scolastica. Ma è una novità, ci fanno sempre credere i professori, noi professori facciamo credere che è passato, ma che è passato? Ma prima dell'Ottocento non c'era questa cosa, ma prima ne erano tutti grulli, eh? Cioè Leopardi, Leonardo e Michelangelo, non abbiamo bisogno di andare a scuola, ma è pieno il mondo anche senza arrivare a queste lettere. Eppure il mondo è cresciuto, eh? Cioè gli studi di neurologia, i più recenti, eccetera, sta apparendo. Io vi ricordo l'affermazione di un neuroscienziato famoso, John Medina, che ha scritto un libro divertentissimo, Le regole, Brain Rules, le regole del cervello, che se si doveva immaginare un ambiente per deprimere al massimo le prestazioni cerebrali, quello era la classe scolastica. La classe scolastica. La cooperazione. Quindi voi collaborate, chiedete agli altri. Lavorate insieme. Allora, il blog quindi funziona così. Ci sarebbe una terza modalità che è particolare, riguarda quelli che si lasciano coinvolgere in dei lavori specifici, perché ci capano abbastanza di computer. C'è un gruppo di studenti composito, è tanto faticoso cercare di allargare da medicina agli altri corsi di laurea, perché la facoltà di medicina è medicina centrica, in tutti i sensi, e non va bene, si ritorna un po' al discorso di prima, volendo. Allora, c'è un gruppo che ha fatto un sito, fatto tutto con software open source, l'hanno poi, io lo sono ispirato, ma poi l'hanno fatto i ragazzi, e lo gestiscono loro, che si chiama MedWiki, e ci si trovano un sacco di dispense. Sarebbe bene piano piano ci finissero anche quelle dei vostri corsi, e se qualcuno volesse collaborare con il gruppo di MedWiki su queste cose, chi collabora, poi non c'è bisogno di stare misurando tanto, io lo vedo, lo so, mi rendo conto, è un gruppo MedWiki, è un gruppo di ragazzi che qua ogni tanto per riamalgamare si va a mangiare una pizza insieme, un po' questo insomma lo spirito, quindi sotto se vuoi fare altro eccetera. Vabbè, lo prende prima perché ha lavorato, ha fatto una cosa e serve agli altri. Allora io premio in questo modo, avevo perso il filo che rende conto anche nel blog, chi aiuta gli altri. Quindi se uno fa un post in un blog dicendo oh ragazzi, ho trovato questa cosa, invece di tenersela per sé, che ha un comportamento imbecille, lo diffonde, lo distribuisce, lo dà agli altri. Allora chi dà una mano agli altri viene premiato, il suo blog vale di più tutte le volte che dà una mano, tutte le volte che c'è un guizzo di fantasia, tutte le volte che uno va di sopra delle righe, ecco, in senso positivo, chi sovverte le regole per migliorare viene premiato, va bene? Ecco, questi sono i criteri di valutazione. Io non sono abituato ad avere un assistente, che tu vai, tu stai facendo. Io lo stress, mi giri morosi. Grazie. Allora, vi scrivo gli indirizzi e vi dico cosa sono, grazie mille. Allora. È un saltello, attenzione. Allora, il mio blog, perché voi. Chi vuole fare il blog, c'ha il blog, e io che non ho più cattedra perché insegno in 6 sedi diversi a 25 corsi di laurea in 3 facoltà diverse, va bene, la cattedra l'ho buttata via, l'ho regalata, uno non aveva bisogno, e c'ho il blog, io sono nel blog, dove scrivo un mare di cose, perché mi si intrecciano le comunità diverse. Ma voi le leggete, questa è la parte, però siccome è una cosa vaporosa, varia, è più divertente. Lì ci saranno anche i famosi compiti. Il blog è questo. Io hanno inventato questi app, non funzionano. Yamarf, per capirsi, è perché a furia di stare in rete mi sono trovato uscito addosso una specie di logo. E io ho la fissa che per insegnare bisogna concentrarsi sull'apprendimento delle persone e dimenticarsi di insegnare, perché questo poi fa una magia, è una mutazione nella testa dell'altro. Insegnare, apprendere, mutare. E poi siccome sono stato prodotto in Svizzera e c'ho un nome strano, Andreas Robert Formigoni, quindi Yamart, così lo sapete. Wordpress.com è un servizio di blog gratis. Allora, quando sentite dire per fare questo, questa innovazione tecnologica, ci vorrebbe le risorse, ci mancano le risorse, vi stanno dicendo delle bugie, ragazzi. Gli asi sono due: o chi vi parla è incompetente, non sa come stanno le cose, va bene, oppure vi mente spudoratamente. Ambedue direi siamo tutti fitti. Perché si può fare un discorso di tecnologia nell'apprendimento di livello massimo, su, come dicono gli americani, on the cutting edge, lì sul filo della lama che taglia, va bene, a costi zero. Io spendo per questa didattica mostruosa, completamente diversa dal solito, boh, 300 euro l'anno. Ma proprio perché a volte, recentemente abbiamo cominciato in una classe telematica per insegnanti elementari e di scuola media di tutta Italia, delle sessioni online, e abbiamo usato un servizio web che consente di fare una classe virtuale, e gratis si arrivava a 50 partecipanti, noi siamo a 20, ma c'è qualche altra cosa, ho voluto proprio prendere quella a pagamento, ho speso 39 euro. Non esiste un problema di costi e funziona alla grande, la gente è entusiasta. Bene, servizio gratuito, blog, questo è blog. Qui, quando qualcuno vende a me, di sicuro qualcuno di voi fra 47 giorni verrà da me: professore, ma dove può vedere? Lì nel blog, lì nel blog, bene? C'è scritto tutto. Si tratta di andare indietro nel tempo, se no, a quest'epoca qui, perché d'ora in poi io scrivo per voi. Comunque la roba vecchia è anche quella per voi, volendo. Però formalmente da ora in poi. Poi c'è, allora, il blog, per chi non lo sa, è un sito, su tutti i siti, non c'è più questa storia, il blog è un sito, solo c'è un autore o un gruppo di autori. A ogni post la gente può fare commenti, si possono così fare discussioni. Il blog è diventato uno strumento di aggregazione sociale portentoso nel mondo. Poi ci sono le pagine wiki. Questo InfoMedFi, questo è banale, era anatomo informatica medicina Firenze, InfoMedFi.pb, no pb, Palermo Bologna, scusate, scritto male. Pb Wiki è nato, è una compagnia anche questa, Peanuts Butter Wiki, è burro di noccioline, una cosa facile, sono su Montigioni, non c'è nulla da usare, ecco. Voi tutti conoscete Wikipedia, l'enciclopedia. Oggi dire enciclopedia, qualcuno ancora si ostina, enciclopedia è Wikipedia, tutte le altre non hanno senso, perché il ritmo a cui cresce la quantità di informazioni prodotte dall'uomo e anche la conoscenza raddoppia ogni pochi anni, c'è chi dice ogni due, ma come fa un'enciclopedia normale a stare dietro a questo? E poi sono stati fatti degli studi su Nature, la più grande rivista scientifica, dove hanno confrontato la più famosa enciclopedia del mondo, la Britannia, con Wikipedia, e sono venute paragonabili. Allora, però la parte Wikipedia è la parte di enciclopedia. Wiki è lo strumento usato, che cos'è? Un tipo di sito web, semplicemente, con la particolarità che ci scrive chiunque. Finito lì, non c'è altro da dire. Ci sono tanti, chiunque può fare un wiki, e in posti, in paesi, in situazioni, in ambienti sociali dove siamo più visti che dalle nostre parti, i wiki si usano tantissimo in ambiente aziendale, anche nelle aziende ospedaliere, nelle scuole, è pieno di wiki utilizzati nel settore educational, come dicono loro, scuole di tipo. Bene, allora, qui ci sono i contenuti, ci sono le istruzioni fondamentali per fare il corso, poi vi dico come fare per l'iscrizione, e ci sono anche i contributi degli studenti quando essi li vogliono dare. È chiaro che se uno mi scrive un contributo, che non sia la bischeratina o incolla da Wikipedia, io la vedo, di no, ciccio, guarda, che sia una cosa, cioè uno chiaramente ha la fissa da 3 anni, ah, che so io, ma installare in continuazione Linux, cioè, per tutte le cose interessanti. Bene, questo è il wiki. Poi ci sarebbe un'altra cosa che è il daily, ma la trovate lì, è un bloggettino, trovate riferimenti, non sto a scriverlo, io vi scrivo solo le cose che servono. Cioè ho finito. Forse. Il daily è un bloggettino dove ci metto un notiziole breve, circa uno al giorno, quando un po', perché in questa massa di persone che si iscrive, io ho tantissime sorprese, voi mi sorprendete tantissimo. E imparo un sacco di cose. Quando qualcosa mi colpisce o mi sembra e vada proprio nella direzione dove secondo me si dovrebbe andare, io lo cito e così tutti possono vedere, andare a vedere, capiscono un pochino in che direzione si sta andando. Bene, come si fa in pratica? Quest'anno questo è strutturato in modo parecchio semplice. Sulla destra c'è un indicione cliccabile, anche tutti i contenuti, le dispense, un sacco di cose. Ma la parte grossa, che sta un po' sulla sinistra, insomma è centrale, c'è un'intestazione, c'è scritto, so io, ma pochissima roba, e poi c'è 3 cose semplicemente. C'è un link che è qualcosa del tipo istruzioni per l'uso. Poi c'è un altro link che è iscrizioni primavera 2009. Siamo in primavera, quindi io nuovo l'iscrizione di tutti, medici, maestri elementari, tutti in un sacco, vabbè. E poi la terza cosa è che ci ho messo l'archivio. Vabbè, l'archivio, presto detto, c'è una pagina dove nel giro di 2 giorni io riesco a caricarlo in internet, sul solito repositorio gratuito, ci schiaffo questi video fatti con tecnologia casalinga, vedete? Questo fatto l'iPodino, vengono benissimo, e quindi chi vuole trova l'archivio delle lezioni. Non lo usa nessuno, frega niente, mi costa zero farlo, ma se uno ne ha bisogno, trovo il servizio. Archivio. Bene, bisogna andare a vedere le istruzioni. Ah, l'ultima cosa, sotto, non si vede, c'è un calendario. Ah, questo ve lo voglio dire, perché... Il calendario, che c'è scritto nel calendario? C'è scritto il che fo io, in dove sono. Per esempio c'è scritto che oggi sono qui, di la a fare lezione femministica. Poi c'è scritto tutte le mattine sono al cubo. E quei giorni vostri sono lì, c'è scritto queste cose qui. Quello è un calendario che ho fatto in Google, Google da tanti servizi. Io aggiorno Google, ma la cosa è ancora più semplice, nel senso che per dare un servizio... Oh, gli errori ci sono, prima di tutto perché sono un grandissimo cialtrone. Sono molto giocherellone, questo mi dà qualche idea, però sono un cialtrone. Quindi quando voi, qualcuno di voi è vittima della mia cialtrone. Ma questo è un fattore umano che chiaramente sotto un certo livello non posso ripetere, ci provo. Però in generale la cosa funziona, nel senso che io qui quando, tipo domani c'ho un impegno imprevisto, mi dicono no, bisogna che tu ci sia, io devo disfare, non posso andare al cubo, nel calendarietto del cellulare, lo cambio, automaticamente mi cambia in Google, automaticamente nella pagina wiki. Quindi voi andate a vedere in wiki. Quando vi dicono per fare le tecnologie, usare le tecnologie ci vuole risorse, fatemi una risata in faccia, perché è tutto gratis, facilissimo da usare. Questo è un esempio. Quindi si è fatto un commento generale su internet, le cose oggi, e anche vi ho detto cosa e vi serve. Dov'è il Cosmeoni? Giorgio Pale, non lo trovo, non c'è questa storia del ricevimento, mando lei, ha detto veniva, invece non è venuto, no, c'è scritto lì. Controllate il giorno prima. Bene, allora, cosa dovete fare? Dopodiché di modo. Allora, andare a vedere nelle pagine wiki le istruzioni. Quando aprite appare una pagina dove c'è scritto istruzioni buone per gli studenti della facoltà di medicina, quindi anche voi, istruzioni per quelli della IUL, dell'università online per i maestri, non vi riguarda, e per quelli del Master in Medicine non vi riguarda. Voi leggete quelle e ci sono le tre opzioni, e a un certo punto c'è scritto leggete prima di tutto, anzi quello studiatelo, il capitolo social networking. Qualcuno mi viene a dire che fo, mannaggia, l'avevo urlato, studiate il capitolo social networking, c'è il link, basta fare clic e si apre la pagina tutta piena di filmati video e chiacchiere mie, perché i filmati YouTube sono uno strumento didattico formidabile per un sacco di cose. Quindi non lo usate in un'aula scolastica universitaria, perché siccome si vogliono proteggere dai pedofili e dalla pornografia e dai virus, è tutto, non funziona quasi mai YouTube, molto raramente, lavorate altrove per queste cose. Social, non lo scrivo, capitolo social networking, studiarlo. Lì c'è anche scritto il blog e questo, vi piglio per la manina, vi fa un discorsino qui là, e vi metto il link a Blogger o WordPress, sono i due sistemi fondamentali per fare un blog, gratis, usate quello se possibile, uno di quei due se volete. Ma quando avete letto il capitolo del social networking, siete maturi per prendere le vostre decisioni in questo corso, vostre e basta, non mie né dei vostri genitori né di nessun altro. E voi a quel punto potete decidere: no, io fo il quiz, benissimo, io fo il blog, benissimo. In ogni caso, a quel punto, c'è scritto, io ve lo dico, andate sull'altro dei due possibili, a parte l'archivio, è iscrizione primavera 2009, si apre una pagina, un due righe, c'è un link, modulo, voi pigiate il modulo, e che sa, il modulo di iscrizione. Anche questo è un servizio che io uso gratis in Google, è Google Spreadsheet, foglio di lavoro al quale posso associare un modulo. Cioè, che succede? Voi ci mettete nome, cognome, numero di matricola, email, eccetera. Quando fate invio, più altro roba ora vi dico, quando fate invio, a me mi si riempie una riga di un foglio di lavoro tipo Excel in Google e io ci lavoro e lo scarico. Iscrizione bella e fatta per tutti i vostri di lavoro, gratis, centralizzata. E ciò, ragazzi, dei tecnici nella farm, nella server farm, che da i migliori del mondo. Cioè è inutile usare le strutture dell'università, perché c'è gente demotivata, che è precarizzata, non funziona un tubo, nulla, e questa è roba che funziona per tutto il mondo, per miliardi di persone. Quindi prima, cioè deve cascare bombe atomiche perché questo. E allora si usa quella roba lì, gratuita. Cosa c'è nel modulo? Nome, cognome, matricola, posta elettronica. Poi c'è l'indirizzo del blog. Attenti, attenti. Quando arrivate lì, per questo avete dovuto leggere il capitolo social network. Quando arrivate lì, va bene, se avete deciso di fare il blog, l'avete dovuto creato, e ci mettete l'indirizzo del blog. Tipo io ci metterei questo. http://amarf.wordpress.com. Se avete deciso di non fare il blog, non ce lo mettete. E quando io può vedere le iscrizioni, se vedo che c'è il blog, vi tiro dentro alla mia tela dove vedo cosa succede nel blog. Se non c'è, io so che quella persona prima o poi arriverà lì e tra un caffè e l'altro verrà a fare tutto. Va bene? Poi dopo c'è anche una serie di domande, perché io faccio sempre parecchie richieste agli studenti, cioè questa evoluzione di cui ora vedete il frutto al 2009 è una cosa che io ho sviluppato facendo un sacco di domande agli studenti, cioè ogni volta sperimentavo una cosa nuova, lo farò anche voi, vi dico ragazzi, ma sta cosa ha fatto schifo o va bene? E secondo voi che si potrebbe fare? Allora succede che queste domande io un po' le fo anche all'inizio per sapere, così capisco meglio, e quindi c'è un sondaggio che voi dovete fare per forza se il modulo non parte. Comunque io vi ringrazio, va bene, di aver risposto, perché a me serve per migliorare la qualità, è l'unico motivo per cui noi siamo qui, migliorare la qualità se possibile di questi eventi. Basta, a quel punto parte il discorso. E voi dovete, poi dice, dopo che ho fatto i blog e mi sono anche scatenicchiato, ci ho buttato una canzoncina, no, sono alla continua, che fo? Tranquillo, te continua a controllare ogni tanto qui, e qui succedono le cose. Poi ragazzi, io in quelle ore sono lì, però questo vale anche nel futuro lavoro e vita, prima uno deve cercare di, con le sue forze, perché spesso poi ce l'ha fatta, poi magari all'ultimo dice, vabbè, mi dici, ma no, agli amici, per ultimo, perché è più capace di tutto, bene? Allora, un'ultima cosa tecnica, perché sennò vi manca un tassello. Voi dovrete vedere anche i blog degli altri, e anche vedere il mio, ma come si fa a fare questa cosa? Come fa? Molti di voi dicono, ma io scrivo, e lei la mi vede, come fa io a sapere? Io buoni ragazzi, vedo tutti. In che modo? In che modo? Con i feed RSS, è una parolaccia tecnica che però se uno dice che serve si capisce subito, ho detto in italiano. Fate conto, anzi io ho contato l'altro giorno i siti che ho nel mio cordello dei siti, dopo gli do un nome tecnico, e ne ho 1200. Ma voi penserete mica io la mattina mi metto a guardare 1200 siti, perché se no mezzanotte ancora non finisco, chiaro no? Allora, il sistema dei feed RSS è un sistemino grazie al quale io ho un posto dove vedo a colpo d'occhio evidenziati solo i siti che sono cambiati dall'ultima volta che li ho letti. Allora, se ne ho 1000, magari ne sono cambiati 50 solo, e 50 ce la fo, vedete. Ecco perché la blogosfera è esplosa. Perché dà la possibilità di creare comunità e di controllare una grande quantità di fonti di informazione. Per me è cruciale, se vuoi. Questi feed sono in realtà degli indirizzini, delle letterine che si carpiscono dai siti web, dove c'è quel quadratino arancione con dei semicircolini, oppure a volte celeste, oppure c'è scritto apposta atom feed, dove c'è scritto questa roba. Uno clicchicchia col tasto destro, copicchia i numerini e li schiaffa in un servizio Google gratis, anche quello si chiama Reader, un aggregatore si chiama il feed, aggregatore un raccoglitore, e lo schiaffa lì l'indirizzino, siamo belli a posto. Poi vi darò delle, non è che voi dovete cercarli di tutti, quando io vi vedo accumulare, quando vi vedrò accumulati, io scriverò, farò un file che ha un nome particolare, chiamo PMN, ve lo darò con delle istruzioni e voi lo potrete integrare per tenere traccia dei, e avere tutti i feed di quelli che possono interessare. Ma con calma, non c'è da stressarsi. E siate assolutamente sereni, per quanto io tenda a volte a dire le cose in modo un po' sarcastico, calco la mano per chiarire messaggi, è completamente neutro il discorso, nel senso, se vi piace fare l'esame professionale tranquilli, non è che poi dopo io divento cattivo, assolutamente, va bene. E l'unica cosa ragazzi è che sul blog c'è di sicuro da darsi da fare, perché se non c'è iniziativa personale non arrivo a farlo, però quando non l'ha fatto becca 30 e via. Quell'altro sistema, io soffro, luce e muro, e voi fate dei quiz, e io dichiaro aver fatto fare dei quiz, e un posto da 30 a tutti. Bravica, curvi da 28 con 26, ecco. No, no, non è mia assolutamente, non è che la punizione, è la forma, la tipologia, è il, che è diversa, diciamo, intrinsecamente, ecco. Però dovete essere assolutamente sereni, perché ci sono persone che sono competenti e capaci, non vogliono, insomma, lo preferiscono, io non discuto, fanno i quiz, li fanno tutti bene, insomma sono 12, 20, ecco, quindi siate sereni in questo. Se vi piace l'avventura, allora lanciatevi pure, ecco. Io direi, Romino, dimenticavo qualcosa. Ma allora basta, ragazzi.